Salvadanaio. Le 12:16 minuti di giovedì 6 maggio, ben sintonizzati su Radio 24 e buona giornata da Roberta Pellegatta. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Salvadanaio, ancora in mia compagnia, sarà così fino a lunedì quando ritroveremo la conduzione la nostra Deborah Rosciani. Nell'attesa oggi parliamo di casa ed incentivi, un argomento che mi dicono starvi molto a cuore, è già stato affrontato con successo qui a Salvadanaio e in effetti ne capisco il motivo, perché acquistare un appartamento cosiddetto ecologico, cioè ad alta efficienza energetica, oppure elettrodomestici nuovi di zecca di classe, se ottenendo contributo diretto dallo Stato, è un'occasione potendo da non perdere. Si fa bene all'ambiente e si riesce a risparmiare. Per la precisione, fino a 7.000 euro per l'acquisto di ecocase e fino a 1.000 euro per l'acquisto di nuove cucine. Poi ci sono i diversi sconti per gli elettrodomestici, sono sconti del 20%. Ma come si fa a ottenere questi sconti? Quali sono le regole? Qual è l'iter da seguire? Ce lo faremo spiegare dai nostri ospiti. Ringrazio per essere qui l'ingegnere Alessandro Panzeri, responsabile ricerca e sviluppo dell'ANIT, che è l'Associazione Nazionale per l'isolamento termico ed acustico, in studio con noi, ben trovato. Buongiorno agli ascoltatori. Invece in linea abbiamo il notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato. Notaio, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E con noi anche Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. Insomma, io a essere in voi approfitterei della consulenza di tali esperti, per cui se volete consigli o risposte chiamate il numero verde, quindi gratuito, 800 24 00 24 oppure mandate un messaggio con il telefonino a questo numero 349 238 6666. Prima di entrare nel vivo, gli aggiornamenti dalle borse doverosi, in diretta c'è il collega di Radio Cora, Ceo Condina, ben trovato. Buonasera a tutti. Come stanno andando i mercati? No, questa mattina sono, diciamo, all'insegna del nervosismo, con notizie contrastanti che sono arrivate appunto nel corso della mattinata. Prima l'asta dei titoli di Stato spagnoli, che era molto attesa a fronte, insomma, delle voci sulla difficoltà e solvibilità della Spagna, è andata molto bene. Poi un report di Moody's, l'agenzia di rating, che invece ha adombrato parecchie, insomma, difficoltà, un possibile effetto contagio sulle banche europee a seguito del possibile crack della Grecia. Quindi, insomma, adesso i mercati guadagnano leggermente, il FTSE MIB avanza dallo 0,24% a Milano, Parigi fa meglio, guadagna lo 0,57%, Francoforte lo 0,7%, ma la sensazione degli operatori è quella che potrebbe bastare una piccola notizia negativa per far ripiombare i mercati nel profondo rosso, a cui sono stati caratterizzati fino adesso questa settimana. Ecco, i titoli bancari come hanno reagito appunto a questo report di Moody's? Ma diciamo che i titoli bancari e Piazza Affari non hanno reagito particolarmente, anche perché Moody's comunque ha sottolineato che il sistema bancario italiano è sufficientemente robusto, ha le spalle sufficientemente larghe per sostenere un urto di questo genere. Unicredito è il migliore, continua a guadagnare l'1-2%, va bene anche Intesa San Paolo che guadagna lo 0,9%, nonostante, diciamo, i grossi sommovimenti a livello di nomine in seno al consiglio di gestione. Quindi, insomma, tiene per adesso il sistema bancario di Piazza Affari. E i cambi come vanno? E nei cambi l'euro continua a testare nuovi minimi nei confronti del dollaro, oggi si è portato all'incirca addirittura vicino a quota 1,27, se pensiamo che fino a settimana scorsa si testava a quota 1,32, 1,33, questo dà l'idea comunque di quanto la moneta unica in questo momento sia alla prova, insieme alla tenuta dell'intera Unione Europea. Un'indicazione importante in questo senso ce l'avremo anche oggi con il verdetto della Banca Centrale Europea, che al di là di quello che può essere il verdetto sui tassi dovrà dare delle indicazioni chiare su come a livello di politica monetaria e finanziaria può contrastare questa sfiducia presente sui mercati e sui titoli di Stato di alcuni paesi europei. Bene, molte grazie a Ceo Condina, collega di Radio Cor, per questi aggiornamenti. Adesso torniamo all'argomento di oggi di Salvadanaio e vediamo in che modo gli incentivi bussano alla porta di casa. In attesa di maggiori dettagli sull'allargamento del pacchetto incentivi, sono ancora disponibili in larga parte i fondi per gli immobili e gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Per quanto riguarda le cosiddette ecocase, per poter usufruire degli incentivi, il contratto preliminare di compravendita dell'immobile deve essere stato sottoscritto successivamente al 6 aprile scorso, giorno di entrata in vigore del decreto incentivi. Nel caso di un immobile di classe A, vale a dire con un fabbisogno energetico migliorato del 50%, la quota di contributo previsto è pari a 116 euro per metro quadro, fino a 7.000 euro. Se l'immobile è invece di classe B, fabbisogno energetico migliorato del 30%, il contributo sarà di 83 euro per metro quadro di superficie utile, fino a un tetto di 5.000 euro. Non è solo sull'acquisto di una nuova casa che si possono ottenere degli sconti. Anche sugli elettrodomestici, infatti, è possibile usufruire ancora di una larghissima fetta di fondi. Nel dettaglio, per chi vorrà sostituire solo un singolo elettrodomestico, è previsto uno sconto del 20%, con tetti massimi differenziati per i diversi apparecchi. Sono agevolabili lavastoviglie, cappe, forni elettrici, piani cottura cucine da libera installazione, scaldacqua a pompe di calore e stufe. Gli elettrodomestici dovranno essere ad alta efficienza energetica, classe A o B, e dotati delle più aggiornate misure di sicurezza. È previsto invece uno sconto del 10%, fino a un massimo di 1.000 euro di incentivo, per la sostituzione dei mobili della cucina, con cucine componibili complete di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Allora, questo in sintesi, poi approfondiremo tutti gli aspetti insieme ai nostri ospiti e grazie anche alle vostre domande, ai vostri interventi all'800 24 00 24 e al 349 238 6666. Insomma, è in arrivo una direttiva europea che impone costruzioni verdi entro il 2020. Anche l'Italia, come abbiamo sentito, sta tentando di mettere in atto le misure necessarie per non arrivare impreparata a questa scadenza e quindi anche in quest'ottica sono stati varati gli incentivi per la costruzione e l'acquisto delle case ecologiche con cui apriamo questo appuntamento, poi ci occuperemo anche di cucine ed elettrodomestici. Io parlo di case ecologiche, ma insomma il termine sicuramente non è appropriato. Angelo Panzeri, come possiamo definire correttamente questi edifici verdi, diciamo? Diciamo che una definizione corretta potrebbe essere anche più semplice: case a basso consumo energetico, in particolare per il periodo di riscaldamento invernale. I professionisti operano in questa direzione ad oggi, il che vuol dire case che abbiano un involucro molto ben isolato, quindi serramenti adeguati, coperture, pareti ben isolate ed impianti tendenzialmente molto efficienti e quindi che siano in grado di produrre la quantità di energia necessaria sprecandone il meno possibile. Al sistema edificio impianto poi si aggiungono le possibilità date dallo sviluppo delle energie rinnovabili, quindi produzione di acqua calda sanitaria, produzione di energia elettrica. Quindi quando si riesce ad agire su tutti questi componenti si hanno degli edifici a basso consumo, quindi chiamiamole ecocase, e si rientra nel discorso della sostenibilità ambientale generale, seguendo la direttiva europea, il protocollo di Kyoto, tutte le indicazioni che ormai sono abbastanza conosciute e diffuse sul territorio nazionale. Insomma, queste sono le differenze tra questi edifici a basso consumo e le case normali. Certo. Risparmiano energia, insomma, grazie agli infissi, grazie alla struttura, grazie a buoni impianti di riscaldamento. Sì, diciamo che gli edifici tradizionali nella maggior parte sono stati costruiti in assenza di legislazione sul risparmio energetico, quindi sono proprio privi di caratteristiche di prestazioni buone dal punto di vista dell'involucro e di isolamento termico. Quindi non hanno materiali isolanti e i vetri sono singoli, come esempi pratici di edifici esistenti. Ecco, quelli del futuro dovranno essere sempre più verdi, con consumi energetici praticamente pari a zero. Sarà possibile raggiungere questo obiettivo? Ma diciamo che gli obiettivi che ci si è dati sono raggiungibili, nel senso che lavorando sulla parte involucro si riesce ad abbattere moltissimo la necessità di energia. In più, dando invece un contributo con impianti efficienti e produzione di energia, quindi lavorando con le rinnovabili, si arriverà ad avere edifici, chiamiamoli attivi, come ci sono già in varie situazioni europee, quindi non è niente di nuovo, bisogna solo decidere di investire in questa direzione. Ecco, in sintesi ci sono più incentivi per edifici di classe A, un po' meno per quelli di classe B. Qual è la differenza? La differenza delle classi è data dalla percentuale di riduzione rispetto al limite di legge. Diciamo che è più facile parlare di classi perché è più comprensibile, ma è un po' fuorviante perché la classificazione non è univoca a livello regionale, nazionale, ma dipende un po' dalle regioni, per cui è più facile fare riferimento invece a quello che è stato fatto effettivamente nel decreto degli ecoincentivi, cioè dire il limite di legge è quello, se lo riducete del 50 o del 30 avete diritto a dei contributi, il che vuol dire più o meno piazzarsi in classe B e classe A, però non è proprio così diretta come indicazione che otterreste poi a livello locale guardando la certificazione energetica. Notaio Rizzi di Vicenza, ci sono comunque delle procedure per ottenere questi incentivi, non scattano ecco da sole spontaneamente, occorre avere anche dei requisiti, vero? Allora, vari sono i requisiti e poi la procedura è anche abbastanza complessa e articolata. I requisiti riguardano le caratteristiche del bene, come si era già detto, devono avere un determinato consumo energetico, quindi in termini abbastanza sintetici diciamo classe A e classe B. Poi deve trattarsi di fabbricati di nuova costruzione, dice appunto la norma del decreto, e su questo si intende per nuova costruzione, anche, almeno secondo la nostra interpretazione, anche radicali ristrutturazioni, quindi non solo una costruzione ex novo, ma anche se c'è stata una ristrutturazione radicale, e si deve intendere il fabbricato quindi che non sia stato già utilizzato in qualche modo da terzi, quindi anche un fabbricato che il costruttore abbia già costruito anche da parecchi mesi, ma non abbia mai concesso in uso a terzi. Poi deve trattarsi, e la norma dice, di prima casa, o meglio la definizione usata dal legislatore parla di prima abitazione della famiglia, una locuzione abbastanza tecnica che non si era mai rinvenuta in norme precedenti e che ha dato luogo comunque già a dubbi interpretativi. Già il concetto di famiglia, ci si è chiesti, deve essere quindi un nucleo fatto di più persone o anche il single può aver diritto a questa agevolazione? E poi cosa si intende per prima abitazione? Deve essere il primo acquisto in assoluto o deve intendersi l'abitazione da destinare a dimora principale della famiglia, per cui chi già possiede una casa, ad esempio la casa in montagna, se vuole comprarsi dove risiede una nuova casa di classe A e B ha diritto comunque all'incentivo. Sono tutte cose che dovrebbero essere meglio chiarite e oggi c'è questo dubbio. E quindi si procede caso per caso? Come? Si procede quindi caso per caso, non essendoci chiarezza su questo? Sì, non c'è chiarezza, quindi il nostro consiglio è in ogni caso chiedere l'agevolazione, intanto prenotare e chiederla, e poi comunque sarà il Ministero o chi deve istruire la pratica che deciderà se ci sono tutti i requisiti. Bentornati a Selva da Rai. Oggi consigli per chi è interessato all'acquisto incentivato di elettrodomestici o cucine, a quello sempre incentivato di immobili ad alta efficienza energetica. Per quanto riguarda le case, sintetizzando quello che abbiamo spiegato nella prima parte, possiamo dire che dallo scorso 6 aprile è possibile usufruire dei contributi diretti, quindi non di sgravi fiscali, pari a 116 euro al metro quadro fino a un totale di 7.000 euro nel caso di acquisto di un immobile di classe A ed un contributo di 83 euro al metro fino a un tetto di 5.000 euro nel caso dell'acquisto di un immobile di classe B. Per chi acquista una cucina nuova invece, con gli opportuni requisiti, lo sconto è il 10% fino a un massimo di 1.000 euro e poi ci sono gli sconti per chi compra forni, piani di cottura, lavastoviglie, cappe e così via. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti e vorrei chiedere a questo punto a Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, per quanto riguarda appunto le cucine e gli elettrodomestici, come sono applicati questi incentivi? Cioè scattano direttamente dal venditore con uno sconto quando andiamo a acquistarli? Sì, certo. È direttamente un contributo che viene dato al rivenditore e quindi l'acquirente acquista già l'elettrodomestico, la cucina componibile, già con un prezzo scontato. Non si tratta quindi di una detrazione fiscale che invece era applicata lo scorso anno su mobili, elettrodomestici, TV e PC se questi venivano acquistati entro appunto fine dello scorso anno. Qui avevamo una detrazione pari al 20% che può essere indicata in dichiarazioni diretti quest'anno. Quindi ricordiamo, i nuovi incentivi non sono delle detrazioni fiscali da indicare nella propria dichiarazione di redditi, ma è una riduzione del prezzo di acquisto che viene applicata direttamente dal rivenditore. Ho un messaggio su questo argomento. Un'ascoltatrice, Luciana, dalla provincia di Pistoia, scrive: nel 2009 ho acquistato un frigo nuovo a più. Stamani al CAF mi hanno detto che il rimborso è concesso solo se vi è rottamazione del vecchio frigo, ma io non ho frighi da rottamare. Allora, la norma prevede questo, in effetti. L'agevolazione riguardante i frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevedeva e prevede ancora, perché è in vigore fino alla fine di quest'anno, la sostituzione di un vecchio frigorifero. Era necessario conservare la fattura del continuo parlante, però era necessario anche rottamare il precedente, un vecchio frigorifero. Diciamo che però una circolare ministeriale recente di qualche settimana fa da parte dell'Agenzia delle Entrate ha detto che possono rientrare gli acquisti di frigoriferi anche se questi non vanno a sostituire un vecchio frigorifero, a patto che ci siano tutte le condizioni previste per l'altra agevolazione, per quella che abbiamo detto prima, quella che quindi c'era la necessità di ristrutturare un'abitazione e questi immobili frigoriferi elettrodomestici dovevano essere inseriti all'interno di questa abitazione ristrutturata con l'agevolazione del 36%. Sentiamo anche Angela da Campobasso. Pronto Angela? Buongiorno, senta, io l'anno scorso... Senta Angela, deve abbassare, anzi spegnere la radio, altrimenti non riusciamo ad ascoltarla. Ecco, io ho comprato l'anno scorso un frigorifero nuovo in classe A, sperando nella riduzione del 20%. Non sono riuscita ad averla perché non sono riuscita a rottamare il vecchio frigorifero. Ora, io so di aver pagato una tassa, la cosiddetta RAE, che prevede lo smaltimento del vecchio frigorifero, se non sbaglio, però il venditore non ha voluto ritirare il frigorifero se non a pagamento. Il mio comune è un comune piccolo, per cui non è organizzato per ritirare i vecchi frigoriferi, sì. Per cui io non posso detrarlo dalla mia dichiarazione dei redditi. Mi sembra una gran presa in giro, sinceramente. Ecco, sono acquisti un po' indietro nel tempo. Ricordiamo subito, Luca De Stefani, da quando valgono invece gli incentivi sugli elettrodomestici di cui stiamo parlando oggi? Ecco, i nuovi incentivi valgono dal 15 aprile, quindi tutti quanti gli acquisti effettuati dal 15 aprile possono avere questo nuovo incentivo, che è una riduzione del prezzo. Senza rottamazioni? Certo, cioè, no, con la rottamazione sempre. Ah, ancora con la rottamazione? Con la rottamazione, certamente. Per dare una risposta alla nostra ascoltatrice, purtroppo sì, confermo che l'agevolazione della detrazione fiscale per lo scorso anno non è possibile perché manca la rottamazione. E per quanto riguarda la rottamazione gratuita da parte del distributore dei nuovi elettrodomestici o dell'installatore, ricordo che due giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso decreto 65 del 2010, che prevede dal 18 di giugno il ritiro gratuito dei vecchi elettrodomestici da parte del negoziante. Quindi ha detto giusto il venditore lo scorso anno, e quindi che lo scorso anno oppure anche ora la rottamazione da parte del distributore è a pagamento, non sarà più a pagamento in quanto entra in vigore il 18 giugno di quest'anno questa nuova norma che prevede il ritiro gratuito da parte dei rivenditori. Parliamo anche di ecocase. Guido dall'Aquila, pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Salve, una domanda che nella realtà racchiude due consigli. Allora, io fra circa 60 giorni avrò la concessione edilizia e sto per costruire la mia prima casa. E sarà una casa ecologica, quindi a basso impatto ambientale. La domanda è, rientro anch'io che costruisco nei famosi 7.000 euro di incentivi? E se sì, come devo fare per richiederli? Notaio Rizzi. Ci sono molte domande di questo tipo anche via SMS, di persone che stanno costruendo una nuova casa di classe A verde, insomma. Ecco, questo è un problema, nel senso che non è chiara la norma. La norma parla sempre di un venditore costruttore e quindi si riferisce al caso tipico dell'impresa, dell'impresario o comunque del soggetto che costruisce una casa e poi la vende. Nel caso di specie invece mi sembra che l'ascoltatore sul terreno di sua proprietà va a costruire una casa ex novo, quindi non esiste un vero e proprio costruttore venditore della casa, lui dovrà comprare i materiali e fare un appalto con un'impresa per la costruzione. Ho i miei dubbi che a questa fattispecie siano applicabili questo tipo di incentivi, stante la lettera della norma. Forse diverso il caso di quelle tipologie di case che vengono vendute già praticamente costruite, queste case di alta efficienza energetica, in cui viene consegnata la casa già praticamente fatta, basta dare il terreno e ti danno la casa. Forse in tipologie dove c'è un unico committente costruttore, probabilmente si può applicare, ma anche questo è uno di quegli tanti aspetti che questa normativa non ha chiarito e che sono ancora in dubbio. Sentiamo Paola D'Alecco all'800 24 00 24. Paola. Buongiorno. Buongiorno. Sento una cosa, mia figlia si vuole sposare e vuole comprare la casa. La casa l'ha vista, è in costruzione, per cui mancherà un anno e qualche mese alla fine della costruzione. A questo punto lei rientra in questo incentivo o no? Notaio. Allora, se non viene prorogato l'incentivo direi di no, perché il rogito deve essere stipulato entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi se la casa verrà ultimata dopo il 31 dicembre il rogito chiaramente deve essere fatto, poi fra l'altro per avere l'incentivo a costruzione ultimata, perché ci deve essere l'attestato di certificazione energetica, quindi la costruzione ultimata negli impianti e in tutte quelle che sono le componenti essenziali che incidono sulla efficienza sui consumi energetici. Quindi se la costruzione verrà ultimata dopo il 31 dicembre di quest'anno, non ci sono le condizioni per potersi avvalere almeno di questa tranche di incentivi. Se dovesse essere prorogata poi questa normativa, probabilmente potrà rientrare eventualmente in una seconda tranche prevista per l'anno 2011. Abbiamo un'altra telefonata, andiamo a Milano da Luciano, pronto? Pronto, buongiorno. Il mio quesito è questo. Io ho acquistato una cucina componibile senza il frigorifero perché tengo il mio frigorifero, perché era nuovo, l'ho appena cambiato un anno e mezzo, e il mobiliere mi ha detto che io non posso usufruire dello sconto perché la cucina non è completa di frigorifero. È vero o non è vero? Luca De Stefani. No, non è vero, in quanto la normativa prevede che la cucina componibile debba avere almeno due dei seguenti elettrodomestici: forno in classe A, piano cottura, lavastoviglie oppure il frigorifero. Quindi se ha almeno due di questi... Scusi, Luciano, li ha almeno due di questi nella sua cucina nuova? In classe A. Prego, Luciano. Sì, stavo parlando, ha sia il forno che la lavastoviglie in classe A. E allora non abbiamo nessun problema, certamente. Quindi ho diritto, non è vero, certo, quello che mi ha detto il mobiliere. Certo. Sicuramente. Benissimo, una buona notizia per Luciano da Milano, ma come convincere questi venditori? La normativa, la legge vera e propria, e quindi si può scaricare direttamente nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è un link dove ci porta nelle pagine riferite relative a questo incentivo, lì ci sono tutte le normative, c'è la norma del decreto ministeriale, ci sono anche le diverse circolari ministeriali, e quindi basta stamparle e portarle direttamente al rivenditore. Allora, tornando alle ecocase, abbiamo un'altra domanda via SMS, c'è un ascoltatore che vuole sapere chi certifica questi risparmi energetici delle cosiddette ecocase. Ingegner Panzeri. Allora, la certificazione energetica a livello nazionale è definita dal decreto 115, quindi ci sono professionisti abilitati che fanno questo, ingegneri, architetti, periti e geometri nella maggioranza dei casi, iscritti al proprio ordine e collegio. Poi però abbiamo, dicevamo, il federalismo ed efficienza energetica regionale, e quindi alcune regioni hanno un proprio albo di certificatori energetici, quindi bisogna fare riferimento all'albo regionale. Per esempio in Lombardia c'è il CENED, in Emilia Romagna c'è un proprio albo, in Piemonte c'è un proprio albo, in Puglia sta nascendo, quindi fare attenzione a livello regionale se c'è un albo di riferimento e prendere quei certificatori, altrimenti nelle regioni che non hanno un albo, per esempio il Veneto, fare riferimento a professionisti accreditati. Bentornati per l'ultima parte di Salvadanaio. Sono ancora disponibili i fondi per gli immobili e gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, l'ingegnere Alessandro Panzeri, responsabile di ricerca e sviluppo dell'ANIT, il notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Allora c'è Marcello che si firma single da Bologna, che ci saluta, che ci scrive così. Buongiorno Salvadanaio, è possibile? È possibile tracciare un cammino per acquistare una prima casa con questi incentivi partendo da zero? Quindi vorrebbe davvero una mini guida radiofonica. Non abbiamo molto tempo, ma il notaio Giovanni Rizzi ci può aiutare forse dando qualche step. Poi... Allora, la procedura è questa. Innanzitutto bisogna avere stipulato con il venditore costruttore un preliminare con data certa successiva al 6 aprile 2010, data che è entrata in vigore del decreto che ha previsto questi fondi. Il venditore a questo punto deve prenotare il contributo presso le Poste Italiane e deve farlo prima registrandosi ottenendo un codice identificativo. Una volta effettuata la prenotazione deve trasmettere poi tutta una serie di dati alle Poste Italiane, riceve a sua volta la conferma che ci sono i fondi, a quanto ammonta il contributo e un ulteriore codice identificativo della prenotazione. A questo punto, entro i 20 giorni successivi alla prenotazione, questo è importante, se no si perde questa prenotazione, bisogna stipulare il rogito definitivo. Rogito nel quale deve essere confermata la prenotazione e quindi la volontà di avere questo incentivo, quindi col numero, indicando il numero identificativo, allegare l'attestato di certificazione energetica, per questo dicevo prima deve trattarsi di un immobile quantomeno completato negli impianti, nelle componenti essenziali al momento del rogito, e il rogito deve essere stipulato entro il 31 dicembre del 2010 e quindi entro questa data ultima e comunque entro i 20 giorni dalla prenotazione. Quindi se oggi fa la prenotazione oggi 6 maggio, l'orologito deve essere fatto necessariamente entro il 26 maggio di quest'anno. Nei 45 giorni successivi all'orologito l'acquirente deve trasmettere tutta una serie di documenti alle poste in via telematica, tra cui una copia anche dell'atto collegato certificato di attestazione energetica, e a questo punto, fatte tutte le verifiche, se ci sono tutti i requisiti, gli vengono accreditati i soldi del contributo, che vengono appunto, al contrario degli altri incentivi, non sotto forma di sconto del prezzo, ma vengono attribuiti direttamente all'acquirente. Non è facile memorizzare, sì, ringrazio, è stato sintetico, non è facile comunque memorizzare tutti questi passaggi, ma io ricordo che Salvadanaio, così come le altre trasmissioni di Radio 24, è riascoltabile al nostro sito internet, che è www.radio24.it, basta poi cliccare sull'icona Salvadanaio ed è possibile appunto riascoltare tutte le puntate con tutta calma. Andiamo da Andrea della provincia di Padova. Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ecco, la domanda che volevo fare, per favore, era questa. Io nel novembre del 2009 ho acquistato degli elettrodomestici, una lavatrice, TV, computer, per una spesa circa complessiva di 2.500 euro. Quando ho fatto la denuncia dei redditi al CAF, non mi ricordo che loro mi abbiano chiesto se ho fatto una spesa di questo genere qui e non ho denunciato niente. Posso ancora recuperare, cioè, riesco in qualche maniera a recuperare, come mi avete spiegato voi, che si può recuperare il 20% di detrazione? No, non è possibile, in quanto quegli elettrodomestici, mobili, TV e PC, dovevano essere comprati lo scorso anno, dovevano essere destinati a arredare un'abitazione ristrutturata, la cui ristrutturazione era partita dopo dal 1 luglio del 2008 e comunque era necessario anche fare un bonifico bancario con una causale specifica e quindi indicare la legge agevolativa, il codice fiscale del contribuente e il codice fiscale del venditore. E quindi se non ci sono queste due condizioni non è possibile ora andare a detrarre in dichiarazione di redditi il 20% per questi acquisti. Dunque Pasquale chiama da Salerno all'800 24 00 24. Pasquale. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Siccome mi trovo nel dover fare la ristrutturazione del terrazzo e vorrei fare siccome il terrazzo non è ben coibentato e quindi durante l'inverno mi crea un grande spreco di riscaldamento. Allora io volevo chiedere se facendo una buona coibentazione, se c'erano gli incentivi anche per questo tipo di lavoro. Ingegner Panzeri. Certamente, dal suo caso mi sembra di capire che lei abbia un locale riscaldato a contatto con l'esterno, quindi se va a intervenire nel terrazzo con del materiale isolante, isolandolo secondo le caratteristiche descritte dal decreto delle detrazioni fiscali del 55%, può ottenere la detrazione d'imposta, quindi non ha gli incentivi in tal senso, non è un contributo diretto. Gigi Dalodi scrive: tra gli incentivi per gli elettrodomestici sono ricompresi anche le lavatrici, Luca De Stefani? Per quanto riguarda le lavatrici non sono comprese, le lavastoviglie sì, sia se sono all'interno della cucina componibile sia se sono all'interno, sì, comprate singolarmente, ma le lavatrici non rientrano negli incentivi. Le hanno lasciate fuori, rientrano lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucina a gas, cappe climatizzate, pompe di calore per acqua calda, ma niente lavatrici per ora. Tiziana dalla provincia di Milano, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sto acquistando una cucina, il venditore mi ha chiesto di pagare il prezzo pieno, che poi successivamente, se lui riceverà il contributo, me lo restituirà in un secondo tempo. È corretto? È corretto questo procedimento, Luca De Stefani? Potrebbe anche essere corretto. Il problema qual è? Il problema è che il rivenditore sa se ci sono i fondi solo dopo che la vendita viene effettuata. Quindi nel caso specifico si tratta di vendita condizionata con una risoluzione sospensiva. Nel senso che il contributo si ha solo se i contributi vengono erogati tra un mese o comunque si sa se ci sono anche subito dopo aver fatto il collegamento internet col Ministero dello Sviluppo Economico. Nel momento in cui si sanno che i contributi ci sono, ecco che l'incentivo c'è, si ha e quindi spetta anche al, al consumatore. Diciamo che però questa deve essere una clausola vera e propria contrattuale, magari in forma scritta sarebbe preferibile, però diciamo che la norma non lo prevederebbe in generale, ecco. Salve, sono Antonio, abito in provincia di Milano, ci scrive un ascoltatore. Le case ecologiche sono aumentate tantissimo di prezzo, tanto che mi conviene comprarla non ecologica. Ecco, ingegner Panzeri, in effetti queste case costano di più. Sì, sì, i prezzi ovviamente salgono un pochino perché si vanno a impiegare impianti più efficienti e più materiale coibente. Però l'ordine di grandezza di spesa che si effettua comprandola rispetto ai consumi che poi si avranno nel tempo, nella vita utile che abbiamo noi italiani dei nostri edifici, non è sicuramente paragonabile, quindi conviene spendere un po' di più adesso e risparmiare nei prossimi anni. Questo naturalmente, però possiamo quantificare. Sì, in termini quantitativi costruire da una classe C a una classe B può costare il 10% in più tendenzialmente, invece andare in classe A dipende bene che scelte si compiono, sicuramente gli importi crescono maggiormente. Non è facile però quantificare perché dipende molto da come è fatto l'edificio, dove è localizzato, ci sono tante variabili. E siamo davvero in chiusura, mi scuso con Giuseppe da Milano e con tutti gli ascoltatori che non siamo riusciti a sentire, ma soltanto per problemi di tempo. Li ringrazio, così come ringrazio i miei ospiti, Alessandro Panzeri, che è responsabile di ricerca e sviluppo dell'ANIT, che è l'Associazione Nazionale per Isolamento Termico e Acustico, il sito è anit.it, giusto? Sì, perfetto. Grazie, buon lavoro. E grazie al notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale nel notariato. Grazie davvero per i suoi consigli. Grazie a voi. Suggerimenti preziosissimi anche quelli di Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. A presto. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, do qualche informazione per i consumatori che sono interessati a questi incentivi per quanto riguarda ecocase ed elettrodomestici. Allora, è attivo un call center, quindi un numero di telefono di assistenza informativo, che è un numero verde, quindi un numero gratuito, ma va chiamato da rete fissa 800, è molto facile da ricordare, 123450, questo è il numero, quindi 800 123 450, numero gratuito. E poi c'è un sito realizzato da Poste e Ministero dello Sviluppo Economico che ha le informazioni appunto per i consumatori con relative FAQ, domande e risposte, e il sito un po' meno facile da ricordare è incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it, senza V, semplicemente incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it. Devo veramente salutarvi, me lo fa capire il nostro regista Pietro Lacorte, che ringrazio, come ringrazio Gaia Romani e Alessandro Longoni per invece il loro lavoro in redazione. Grazie a voi per l'ascolto. Selva Danaio torna domani alla stessa ora. Una buona giornata da Roberta Pellegatta.